L'abbiamo anticipato in diversi momenti di questa nostra giornata. Oggi apriamo il dibattito su un tema che era al centro dell'edizione del supplemento domenicale del Corriere della Sera, la lettura domenica. Quattro pagine dedicate ad un ritrovamento importante effettuato nell'archivio del Vaticano, una lettera datata 1942, nella quale un gesuita tedesco scrive al segretario di Papa Pio XII spiegando nel dettaglio quello che stava accadendo in Germania nei campi di concentramento. La più importante delle conseguenze di questo ritrovamento è evidentemente la prova documentale di una questione di cui si è dibattuto per decenni, ovvero se il Papa e la Chiesa con lui sapessero e sapesse o non sapessero dell'olocausto che si stava compiendo. La scoperta è di Giovanni Cocco, archivista e ricercatore dell'Archivio Apostolico Vaticano, il quale è uscito proprio ieri nelle librerie con un volume che riassume le principali scoperte di questo imponente lavoro di riordino, che va ad inserirsi, come dire, in un momento di riscoperta complessiva. Sono un paio d'anni, forse qualcosa di meno, che gli archivi sono disponibili per quello che concerne il periodo di papato di Pio XII. Il titolo del volume è Le carte di Pio XII, oltre il mito, lo pubblica l'Archivio Apostolico Vaticano. Intanto è in studio con noi il collega Marco Pagani, ben trovato Marco. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. E andiamo ad introdurre Giovanni Cocco, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. È con noi al telefono anche il professor Emilio Gentile, emerito di storia contemporanea e tra i più autorevoli studiosi del periodo fascista. Gli ascoltatori e le ascoltatrici della Rete 2 lo conoscono molto bene. Ben trovato, professore. Grazie, buongiorno e saluti a chi ci ascolta. Anche a lei, professore. Allora, partiamo evidentemente dalla lettera. Che cosa ci dice e quanto è circostanziata nel descrivere la macchina di sterminio tedesca nella Germania del 1942? Giovanni Cocco. Allora, innanzitutto la lettera proviene da un gruppo di carte che abbiamo recuperato, ci sono state versate dalla Segreteria di Stato nel 2019, ed è quanto rimane di una corrispondenza che doveva essere sicuramente più fitta tra il padre Lothar König, che apparteneva al circolo di Kreisau della resistenza tedesca, e il segretario personale di Pio XII, padre Robert Leiber, che informava il pontefice e addirittura sottoponeva gli stessi documenti. La precisione delle informazioni è un po' oscillante, nel senso che i 5.000 o 6.000 morti indicati non sono precisamente il numero dei morti quotidiani, ma era la notizia che circolava nei circoli della resistenza. In quello stesso periodo l'animatore del circolo di Kreisau, il conte von Moltke, parlava dello stesso numero di polacchi ed ebrei che venivano giornalmente sterminati nei campi di e concentramento. Ecco, questo in qualche modo ci dà la spunta per la domanda successiva, ovvero lei diceva si sapeva già qualcosa di quello che stava accadendo, ma quanto di questa descrizione, di quanto contenuto nello specifico in questa lettera rappresenta una novità in quel momento per i servizi di informazione del Vaticano? Ovvero, in altre parole, cosa possiamo noi ipotizzare che si sapesse in Vaticano nel 42 di quanto stava già avvenendo nei campi di concentramento, Giovanni Cocco? Allora, sicuramente le notizie arrivavano già dalla metà del 42, per canali diversi, cappellani militari, vescovi locali, uomini d'affari, penso al nome di Giovanni Malvezzi dell'IRI, che si recava spesso in Europa orientale e tornava in Italia e riferì più volte in Vaticano. L'eccezionalità di questo documento è che ci dà una voce dall'interno stesso, dal ventre del drago. mettendo in fila quelle che sono le informazioni stesse raccolte dalla resistenza tedesca. Non solo si fa riferimento a un rapporto su Auschwitz, dicendo che le informazioni che si erano mandate erano esatte. Ora noi ignoriamo questo rapporto di cosa parlasse. Questa lettera in realtà accompagnava una lista, una statistica sui sacerdoti detenuti nel campo di concentramento di Dachau. Purtroppo, come ripeto, è l'unico esemplare rimasto, sopravvissuto o ritrovato di questa corrispondenza. Ecco, questo crediamo che sia un aspetto centrale, no, di questo ritrovamento, perché la lettera di Lothar König sembrerebbe inserirsi in un flusso di comunicazione che aveva una certa consuetudine, perché si rivolge a Robert Leiber con un caro amico, è corretto? Sì, lieber Freund, caro amico, e si firma come Herr Lothar, vostro Lothar, ma questo mi sorprende meno di un certo gergo usato nella lettera, dove si fa riferimento a un onkel, a uno zio che nel gergo a volte usato dai gesuiti in codice era il padre provinciale. O al signore, al discorso che sta preparando, ovvero a Pio XII e al prossimo discorso che avrebbe dovuto preparare per il Natale, con ogni probabilità. E veniamo... Quindi un parlare in codice significa tanto. Veniamo, dicevo, a Pio XII. Chiamo in causa il professor Emilio Gentile per chiedere anche a lei, intanto, che conseguenze, a suo parere, potrebbe portare questo documento nella lettura storica della figura di Pio XII e dell'atteggiamento in generale della Chiesa nei confronti del nazismo in quei difficili anni. Intanto, ci racconti un po' come si è evoluta anche da un punto di vista del dibattito storico l'immagine e quello che sappiamo, quello che crediamo di sapere intorno alla figura di Pio XII. Beh, il punto centrale del dibattito storico su Pio XII riguarda fondamentalmente i cosiddetti suoi silenzi, e ovviamente questi silenzi sono condizionati anche dal fatto di poter accertare, come adesso si può cominciare a fare con questo documento, di quanto Pio XII e la Chiesa di Roma fossero effettivamente a conoscenza del destino degli ebrei nei campi di concentramento diventati campi di sterminio. E su questo credo che il documento ritrovato, per quanto sia un documento isolato, ma che lascia, come diceva il professor Coco, presupporre che fosse una serie, all'interno di una serie di corrispondenze, dà ormai per certo che almeno la conoscenza che i campi di concentramento fossero diventati campi di sterminio, dove insieme ai polacchi venivano trucidati gli ebrei, è a conoscenza. Fino a che punto venga poi ampliata questa conoscenza da lettere, notizie, per così dire, ecco, le notizie del numero, è ancora da ricercare. Però una questione di fondo, secondo me, che ovviamente solleva moltissime ipotesi, è: perché Pio XII si comportò nei confronti del problema del razzismo e dell'antisemitismo in maniera diversa di come aveva cercato di fare fino agli ultimi giorni Pio XI? Perché la contrapposizione tra l'esplicita accusa o la campagna di accuse o addirittura un tentativo di promulgare un'enciclica che fu preparata ma non completata sulla unità del genere umano, che condannava non solo il razzismo ma anche il totalitarismo, che è una questione completamente ignorata da Pio XII, ci mette di fronte a due figure molto diverse, molto diverse. Io credo che in Pio XI ci fosse un temperamento non solo collerico, irascibile, sul quale molto spesso insistono, o addirittura una certa somiglianza autoritaria con Mussolini. Lui vive con angoscia, sin dal 1924-25, la presenza di un fenomeno in Italia come il fascismo, di cui la caratteristica fondamentale, come viene evidenziata, intuita da cattolici come Luigi Sturzo, come Novello Papa Fava, cioè il suo totalitarismo, la sua pretesa di essere non solo un partito di dominio ma un partito anche di conversione, presentandosi come una propria religione, e questo ha angosciato sempre Pio XI in quelle vicende alterne. Pio XII cerca di porre fine a questa diatriba. Perché? Perché spera di, innanzitutto, siamo nel 39, spera di convertire Mussolini alla pace, spera di superare quegli attriti che c'erano stati fino al 38 anche sulla questione delle leggi razziali, soprattutto per i matrimoni che riguardavano gli ebrei convertiti. E poi c'è la minaccia della guerra. Quando Mussolini inizia a coinvolgere l'Italia, allora bisogna vedere come il problema di Pio XII non è soltanto quello di occuparsi di quello che accade in Germania, ma di quello che potrebbe accadere in Italia, con un regime che ormai ha imboccato senza più ritorno la via di un totalitarismo sempre più prossimo nel rigore e anche nella cultura a quello nazista. Mi pare di capire, Emilio Gentile, ma chiedo anche a Giovanni Coco, che la figura che emerge di Pio XII è quella anche di un papa, se vogliamo, pragmatico, che si rende conto, soprattutto nel 42, la data di questa lettera, da un lato che dichiarazioni di principio moralmente ineccepibili però potrebbero causare difficoltà addirittura ulteriori, ad esempio alla comunità cattolica polacca, ai vescovi polacchi che in quel momento sono sotto lo scarpone chiodato del nazismo, e quindi cerca in qualche modo di tenere ferme, potremmo dire, le bocce, e dall'altra parte si rende anche conto, c'è anche forse la paura concreta che un domani il nazismo, che non si sa ancora che perderà nel 42, possa arrivare a fare i conti con il Vaticano, e quindi c'è anche la paura di essere troppo chiari in quel senso, perché poi questi nodi potrebbero tornare al pettine e causare ulteriori sofferenze. Può essere una lettura anche questa? Chiederei prima a Emilio Gentile, poi anche a Giovanni Coco, se vuole. Ma direi che è una lettura del tutto plausibile, anche perché Pio XII è un diplomatico, non ha uno spirito profetico, poi lo avrà nei confronti del comunismo, come Pio XI l'aveva avuto nei confronti del nazismo, del comunismo e poi anche nei confronti del fascismo, anche se meno eloquentemente ed esplicitamente. Ma il problema di Pio XII è un po' come quello di Benedetto XV, è in guerra, la Chiesa si trova di fronte ad uno scontro mondiale in cui sono coinvolti cattolici in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, non ce ne sono in Asia se non in misura minima, in Giappone, ma è tutto il continente europeo in cui il destino degli ebrei, che era stato già adombrato fin dal 1933, e se non sbaglio fu il cardinale Faulhaber, contrario al nazismo, a dire però tutto sommato gli ebrei possono aiutarsi fra di loro, ma quando si pone con il 1939-40 il destino dei cattolici di fronte alla Germania nazista, pensiamo al destino di Edith Stein, che nonostante fosse convertita, suora cattolica, viene mandata ad Auschwitz con la sorella, quindi il rischio che una presa di posizione di Pio XII contro la persecuzione degli ebrei, ma in più in generale contro la politica genocidiale del nazismo a cui collaborava anche l'Italia, potesse estendere la persecuzione anche ai cattolici, non è un'ipotesi da scartare. Più che una paura è la consapevolezza che ci si trova di fronte ad un fenomeno come quello del totalitarismo, che non è l'anticlericalismo vecchio stile, è qualcosa che fin dal 1930 si comincia a percepire come antagonismo neopagano. Pensiamo al concilio delle chiese ecumeniche nel 1937 a Oxford, al quale la Chiesa Cattolica non partecipa, ma è tutto incentrato sulla novità e la gravità del pericolo totalitario nei confronti delle chiese, della religione cristiana. Giovanni Coco voleva aggiungere qualcosa in merito alla sua posizione, al suo punto di vista, qual è? Mi trovo nelle posizioni e in quello che ha detto il professor Gentile e aggiungo, se possibile, qualcosa che viene anche dallo stesso documento, perché lo stesso padre König a mettere in dubbio che i documenti mandati in Vaticano possano finire in cattive mani, invoca prudenza, non, lo dice chiaramente, qui io rischio la mia testa e quella di altri, è bene che non si diffondano notizie perché può pregiudicare la stessa rete, sia di resistenza ma anche la posizione della Chiesa in Germania. Qualora si fosse accertato che queste notizie provenivano dalla Chiesa tedesca, sicuramente ci sarebbe stato un inasprimento nei confronti dei cattolici tedeschi. E in questo senso anche le poche parole allusive del radiomassaggio del Natale 1942, che segue di pochi giorni questa lettera e che probabilmente Pio XII, aggiornò con delle brevi correzioni proprio alla vigilia della pronuncia, risente di queste richieste al silenzio e nello stesso tempo riflette uno stato d'animo di un Papa che sentiva dentro la sua coscienza il conflitto morale che portava tutto questo. Giovanni Cocco, ancora una cosa a proposito delle conseguenze per la Chiesa, no? Noi sappiamo che dal gennaio del 41 Dacao era un nome conosciuto in Vaticano per essere il campo di detenzione principale per il clero. La lettera da cui siamo partiti aggiunge dati precisi e circostanziati sullo sterminio degli ebrei. Quanto sapeva il Vaticano dell'enormità di quanto stava accadendo, considerato appunto che vi erano sacerdoti chiusi dentro Dachau, e di quali altre fonti di informazione poteva disporre il Vaticano su questo fronte? Allora, come ho detto prima, le prime voci che iniziano a testimoniare uno sterminio sistematico sono della metà del 42. In seguito abbiamo voci riferite da chi è stato in Europa orientale o dai vescovi locali. A volte si trovano dei documenti singolari, come un manifesto della resistenza polacca che protestava contro la liquidazione del ghetto di Varsavia e che parlava della deportazione degli ebrei messi su treni blindati dai quali non sarebbero più usciti. Tutto ciò però si confonde con una serie di informazioni di diversa provenienza, a volte dalla stampa internazionale, dalle stesse agenzie ebraiche, dagli alleati, e non sempre c'era chiarezza in questa informazione. Purtroppo noi non conosciamo tutto il complesso delle notizie che provenivano dal ventre del drago. Forse conoscere e avere questo materiale ci aiuterebbe a capire anche meglio. Da quello che ci dice questo documento, che è quasi un apax, possiamo capire che delle notizie, a volte con delle imprecisioni, arrivavano, ma che erano piuttosto documentate ed erano ritenute sicuramente attendibili. Vogliamo fare un piccolo inciso in questa discussione questa mattina. Torniamo alla figura di Lothar König. Giovanni Cocco, in modo particolare, volevo capire, perché sappiamo essere stato membro della rete della Resistenza, essere in contatto con l'arcivescovo di Monaco, che era un nemico del nazismo. Ecco, che cosa poteva significare per un gesuita tedesco essere membro di una rete di resistenza in Germania? In quell'epoca non era l'unico. Ricordo che di questo circolo di Krausau, se non erro, faceva parte anche padre Alfred Delp, che finì al patibolo, e altri gesuiti. L'ordine, la congregazione dei gesuiti era presa di mirino dal regime nazista proprio per i suoi legami più stretti con Roma e per la sua rete di collegi, quindi di potenza di formazione della gioventù che contrastava la macchina propagandistica nazista. E sono proprio i gesuiti i più attivi nel clero cattolico in genere a muoversi contro la macchina nazista. Ricordo che quando viene occupata l'Austria con l'Anschluss, il Canisianum, che è uno degli istituti principali della compagnia in Austria, verrà chiuso, solo per citare un caso. Quindi il buon padre König si iscrive in questa tradizione, se vogliamo chiamarla così. Allora io chiedo ancora a Emilio Gentile uno sguardo all'oggi e a come l'oggi guarda allo ieri. Perdoni, insomma, il gioco di parole, ma la Chiesa di oggi, secondo lei, come guarda alla Chiesa di quell'epoca? Con quale atteggiamento? Che atteggiamento prevale in particolare nei confronti delle pagine più difficili come questa e del ruolo che la Chiesa ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale e durante l'Olocausto? Ma io credo che il miglior atteggiamento sia quello dimostrato dall'apertura degli archivi. Non ci può essere altro atteggiamento di serietà di fronte a quella che è la necessità di conoscenza che quello di rendere noti, aprire, far possibilmente scoprire anche ciò che non volontariamente, ma magari per caso, si è disperso, farlo conoscere e proseguire senza sollevare immediatamente grida di accuse, di grido, di assoluzione, perché per noi che stiamo parlando oggi, ancora in un mondo relativamente tranquillo all'inizio, forse di un'età selvaggia, è troppo facile andare subito alle conclusioni di ciò che accadeva, di come si comportavano, di quello che decidevano nel 1942, quando nessuno sapeva quale sarebbe stato il destino dell'Europa e del mondo. E chiunque doveva allora decidere, avendo la responsabilità di milioni e milioni di fedeli, credo che l'unico atteggiamento che la Chiesa ha e che dovrebbero avere però tutti, è quello di conoscere i fatti, accertare ciò che si sapeva e ciò che si ignorava e poi valutare perché si reagì in un certo modo piuttosto che in un altro, ma non con la sapienza del senno del poi, che è troppo comodo e anche un po' vile. Giovanni Cocco, tornando alla lettera, sappiamo che fa parte, lo dicevamo, di un voluminoso corpus di documenti che sono stati appena riordinati. I risultati di questo lavoro, lo dicevamo, sono confluiti in questo suo libro curato che è uscito ieri dal titolo Le carte di Pio XII oltre il mito. Che cosa possiamo dire su questa lunga attesa? Quali sono state le cause, oltre magari al semplice fatto che queste carte erano secretate? Guardi, come le ho detto, abbiamo ricevuto il versamento di questi documenti nel 2019, quindi a ridosso dell'apertura. E gli archivi, chi li frequenta sa bene che non sono purtroppo così ordinati come le biblioteche. Spesso nascondono, ahimè, delle sorprese, cioè dentro materiale che dovrebbe essere ordinato si trova confusione o arriva già il materiale in uno stato di cattiva conservazione, come è stato nel caso di questi documenti. Le dico semplicemente che i manoscritti, gli autografi di Pio XII erano stati conservati in dei raccoglitori fotografici che avevano quasi provocato la combustione dell'inchiostro. Diciamo che anche la cultura archivistica negli anni è cresciuta e ci porta ad evitare alcuni errori del passato. Adesso, per quanto è possibile, stiamo recuperando il ritardo e procediamo sempre al riordino della documentazione. I nostri fondi che interessano il pontificato di Pio XII sono veramente tanti, e solo pensare il numero delle rappresentanze pontificie fa venire il capogiro. Sì. E noi stiamo continuando quest'opera di riordino per offrire la conoscenza dei documenti già all'istituzione stessa, che talvolta non li conosce, e poi per offrirli al pubblico degli studiosi. E magari anche al nostro pubblico, ci prenotiamo già nel caso uscissero ulteriori novità dal punto di vista storico per tornare sull'argomento con il dottor Cocco. Grazie intanto. Grazie. Allora sì, insomma ci sembra di capire che il lavoro è appena iniziato, i documenti sono tanti, ringraziando anche il professor Emilio Gentile che è tornato ai microfoni della nostra Rete 2. Grazie infinite, buon lavoro e a risentirci anche con lei. Buon lavoro a voi. Noi chiudiamo qui il dibattito di questa mattina ricordando che siamo partiti dalle pagine della lettura del Corriere della Sera, Pio XII sapeva, questo è il titolo, tutto è partito da un volume di Giovanni Cocco, Le carte di Pio XII oltre il mito, Eugenio Pacelli nelle sue carte personali, cenni storici e inventario. Allora grazie anche a lei Giovanni Cocco per essere stato grazie con noi questa mattinata, le auguriamo un buon lavoro, in bocca al lupo.